9 in punto. Buongiorno, bentrovati da Gianfranco Fabi. In questa puntata di 9 in punto vogliamo riprendere alcuni temi delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco venerdì scorso, soprattutto sul fronte generale, e vogliamo riprenderle anche parlando appunto con i nostri esperti che vi presento subito. Professor Alberto Quadrio Curzio, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Alberto Quadrio Curzio è professore emerito di economia politica presso l'Università Cattolica di Milano, e con il professor Giancarlo Brangiardo, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Giancarlo Brangiardo è docente di demografia presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. E vogliamo riprendere i temi di Ignazio Visco, appunto soprattutto sul fronte dei grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. Vi ricordo l'800 24 00 24, il numero verde per le vostre chiamate, e il 349 238 6666 per i messaggi SMS. C'è proprio un messaggio SMS che ci dice: basta parlare del passato, guardiamo un po' al futuro invece di continuare a rivangare quello che è stato nel passato. Ma se guardiamo nel passato è proprio per cercare di capire dove dobbiamo andare, che cosa possiamo fare, e proprio il richiamo di Ignazio Visco è stato forte sulla necessità di un aggiustamento appunto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, tenendo conto di quanto non abbiamo fatto in passato. È un aggiustamento, ha affermato Visco, che necessita del contributo decisivo della politica, ma essenziale la risposta delle società e di tutte le forze produttive. Quindi la risposta della società di fronte a questi temi di cui dobbiamo essere coscienti, e per essere coscienti dobbiamo guardare a che cosa è avvenuto. E allora ricordo queste parole di Visco: non siamo stati capaci di rispondere agli straordinari cambiamenti geopolitici, tecnologici e demografici degli ultimi 25 anni. Ultimi 25 anni, 1988, nel 1988 c'era ancora il centrosinistra, il presidente del Consiglio era Ciriaco De Mita, in Italia la Cina era ancora un paese isolato, è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2011, nel 1988 si insediava al Cremlino Mikhail Gorbaciov e iniziava un processo di cambiamento che l'anno successivo peraltro portava poi alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Quindi in 25 anni sono successe tante cose, c'è stato anche un forte cambiamento della demografia, con un vecchio continente, come è chiamata l'Europa, che è diventato un continente sempre più vecchio. Allora, professor Quadrio Curzio, questi grandi cambiamenti l'Italia perché non li ha percepiti, e come di fatto avrebbe potuto fare qualcosa per, da una parte, sfruttare le opportunità, perché i cambiamenti sono anche grandi opportunità, e dall'altra per evitare di aggravare i propri problemi. Professor Quadrio Curzio. Ma lei ha descritto in modo impeccabile questi grandi cambiamenti verificatisi dal 1988 ai giorni nostri, cambiamenti che certamente hanno coinvolto l'Italia, talvolta come soggetto attivo, molto spesso come soggetto passivo. Partendo dall'osservazione di Ignazio Visco, che in qualche modo indica anche nella incapacità del sistema produttivo di tenere il passo di questi cambiamenti, tra luci e ombre vorrei mettere in evidenza anche alcune luci, ed in particolare noi abbiamo avuto il decennio degli anni 90 molto difficile, in cui tuttavia l'Italia ha cercato ed è alla fine riuscita di riaggiustare i propri conti pubblici per entrare nell'euro, e questo è stato, a mio avviso, lo ripeto come spesso faccio, un grande risultato. Negli anni 90 si è anche preparata quella variazione del sistema produttivo italiano che ha creato un vero e proprio dualismo nel sistema stesso, e cioè un insieme di imprese altamente competitive che si sono proiettate completamente sull'estero. Sappiamo che oggi c'è un insieme di imprese che esporta o che attua anche all'estero l'80-90% della propria produzione, pur mantenendo in Italia un radicamento forte, e invece quelle imprese che sono rimaste radicate solo sul mercato nazionale, spesso anche in aree protette o in mercati protetti, che non ha adeguatamente accettato la sfida. Ecco, questo dualismo secondo me si è andato accentuando molto nel corso degli anni 90 e nel primo decennio di questo secolo, ed in tal modo ha dimostrato due cose: uno, che ci sono imprese italiane in grado di innovare, di internazionalizzarsi, di competere, come dimostrano i surplus commerciali; l'altro, che ci sono invece imprese che preferiscono rimanere nel mercato interno, cercare delle protezioni ed in tal modo evidentemente esporsi poi a quello che inevitabilmente sarà un crollo più o meno prevedibile per quanto concerne i tempi. Ecco, questo io direi che è una rappresentazione abbastanza veritiera, e devo anche dire che le imprese che hanno esportato hanno reagito a due grandi sfide: una, la concorrenza che veniva dai paesi emergenti, tra cui la Cina, e l'altra, la mancanza di quelle svalutazioni competitive che avevano, come si dice usualmente, drogato l'economia italiana per tanti anni. In ogni caso è chiaro che bisognerebbe prendere esempio dai modelli virtuosi e in qualche misura cercare di far convergere i modelli meno virtuosi verso quelli virtuosi, e ovviamente questa è una grande sfida che ci attende tutti quanti oggi. E quindi valorizzare, professor Claudio Curzio, quelle imprese che funzionano, che riescono a innovare, che riescono a esportare, perché se noi guardiamo solo alla media, la media è una media che dimostra in fondo le difficoltà dell'economia italiana, però la media è fatta di tanti fattori, di fattori positivi e di fattori negativi, e bisognerebbe appunto avere la possibilità di valorizzare queste imprese, ma anche valorizzare, lei accennava appunto al dualismo territoriale, anche valorizzare il mezzogiorno. Le politiche passate hanno dimostrato, con i tentativi di industrializzazione forzata che sono stati fatti, che la strada era una strada ambiziosa ma che non ha dato i frutti sperati. Su questo fronte forse delle politiche diverse, di politica di maggiore apertura al mercato e quindi con maggiori infrastrutture, maggiori collegamenti, maggiori opportunità potrebbero essere valide, professor Claudio Curzio. Ma guardi, io vorrei ricordare che nel 1946 fu fondato un istituto di ricerca denominato Svimez, i cui fondatori erano tre personalità del Mezzogiorno e tre personalità del Nord Italia. Questo istituto invocava come sua chiave di azione la logica industriale, ma logica industriale non voleva dire necessariamente industria, e meno che mai industria pesante, spesso sovvenzionata e come tale inefficiente, ma voleva dire una logica rigorosa, una logica di produzione che era completamente diversa dalla logica dell'assistenza che ha avuto, ahimè, spesso degli esiti dannosissimi. Detto questo, io credo che il Mezzogiorno sia un giacimento di intelligenze, di capacità straordinario, e anche un giacimento dotato di valori specifici che andrebbero molto, molto, molto messi a frutto. Intendo dire i valori specifici delle potenzialità turistiche, i valori specifici delle potenzialità agricole, ma anche i valori specifici delle potenzialità per la ricerca che in taluni istituti del CNR, per esempio localizzati nel Mezzogiorno, hanno dato dei risultati importantissimi. Segnalo un caso: vi è una impresa del Mezzogiorno che collabora col CNR che crea delle parti molto specifiche e molto, molto tecniche di aerei da trasporto pesanti, e quindi ovviamente caratterizzati da un'alta tecnologia. Il problema del Mezzogiorno, secondo me, è che esiste un ceto molto piccolo numericamente, ma molto penetrante nel Mezzogiorno stesso, che riesce in modo legale o in modo illegale a bloccare tutto il resto. Bisogna riuscire a sbloccare il Mezzogiorno rimuovendo questi ceti di natura limitata numericamente ma di capacità di penetrazione molto forte, che bloccano appunto lo sviluppo di un'area straordinaria. Ecco, grazie professor Claudio Curzio, resti con noi. Io vorrei approfondire adesso un elemento tra quelli appunto citati dal governatore della Banca d'Italia che spesso viene un po' sottovalutato, ed è l'elemento demografico, l'andamento demografico italiano, con il fatto che negli ultimi anni la la crescita si è praticamente arrestata, non abbiamo più la possibilità di sostituire, diciamo, con nuovi nati quelli che ci lasciano, e l'Italia sta invecchiando. C'è un doppio fattore demografico, una minore percentuale di nascite e una, fortunatamente un allungamento della vita media che porta con sé numerose ripercussioni di carattere sociale. Allora, con il professor Giancarlo Brangiato vorrei chiedere se appunto questo richiamo di Ignazio Visco alla incapacità italiana di adattarsi, di prendere coscienza e anche di prendere delle misure per, se possibile, in qualche modo tener conto di questo fattore demografico, ecco, se questo richiamo è giustificato e perché è giustificato, professor Brangiato. Sì, allora, innanzitutto, quando se andiamo indietro appunto a 30 anni fa circa, abbiamo una situazione in cui in Italia nascevano circa 40.000 bambini in più rispetto al numero dei decessi. Oggi è esattamente il contrario, quindi un ricambio tra nati e morti, decisamente da positivo a negativo, è un segnale di indubbia importanza. Sullo sfondo poi c'è stato un profondo cambiamento, appunto l'allungamento della vita, quindi un profondo cambiamento rispetto alla composizione per età della popolazione, quindi quello che si chiama l'invecchiamento della popolazione. Insomma, l'Italia è, rispetto a 20-30 anni fa, una nazione con qualche milione di abitanti in più, ma normalmente proveniente dall'estero, e una maturità della popolazione decisamente più avanzata. Ora, questo è il sorpasso dei giovani, dei nonni sui nipoti, è già avvenuto, ed è avvenuto più o meno all'inizio di questo secolo. La prospettiva del futuro è del sorpasso dei bisnonni sui pronipoti, cioè le persone con più di 80 anni diventerebbero più numerose addirittura dei bambini con meno di 10 anni. Ora, è chiaro che questo è un profondo cambiamento rispetto al quale naturalmente si è fatto decisamente poco, nel senso che non si sapeva che sarebbe avvenuto, perché insomma l'invecchiamento non è nato dal nulla, si sapeva che sarebbe avvenuto, eppure nonostante questo, io ricordo gli anni dei prepensionamenti facili, tanto per fare un esempio, e allora già si sapeva che a un certo punto la popolazione italiana sarebbe invecchiata. Ecco, professor Brangiato, la interrompo, mi scusi, perché ci sono, lo immaginavo, ma ci sono immediatamente degli sms che ci dicono: ma perché continuate a parlare di demografia? Il mondo è sovrappopolato, è positivo il fatto che ci sia una limitazione, un freno alle nascite, perché siamo in troppi. Allora, qui è il solito discorso, cioè ci sono paesi come l'Italia in cui, ma non solo l'Italia, anche gran parte dell'Europa, in cui la popolazione non solo è stazionaria, cioè non cresce più, o meglio, se cresce ottiene la posizione semplicemente per via dell'immigrazione, ma non ha la capacità di ricambiare se stessa. Ci sono paesi nelle altre parti del mondo nei quali è esattamente il contrario. Ora, non è così facile immaginare un sistema di vasi comunicanti in cui dove c'è l'eccesso si va a scaricare altrove, perché lo abbiamo visto, l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, cioè l'immigrazione è un fattore importante, ma non si può pensare che, tanto per dire, i surplus dell'Africa subsahariana, certo, inevitabilmente vadano tutti a finire nel sistema europeo. Quindi il discorso dello sviluppo è un discorso che va articolato anche territorialmente, quindi ciascuna popolazione ha un suo equilibrio da raggiungere. Ecco, quindi il caso italiano è un caso particolare. Ecco, io vorrei dare un dato che forse è significativo. Attualmente in Italia i giovani che hanno 20 anni sono 600.000, proprio 20 anni, tra 20 e 21 anni, sono 600.000. 25 anni fa, cioè quelli che ora hanno 45 anni, quelli che ora hanno 45 anni sono 975.000, quindi sono un terzo in più di quelli che hanno 20 anni, e quindi 25 anni fa, scusate se mi ingrippo nelle cifre, ma 25 anni fa c'erano molti più giovani che non ora. È anche da questo fatto, professor Brangiato, che deriva la stagnazione dell'economia italiana. Avere 300.000 ventenni in meno, che vuol dire avere su una classe di età tra i 20 e i 25 anni 1,5 milioni di persone in meno rispetto a 25 anni fa, qualche significato economico lo può avere, professor Brangiato? Questo sicuramente, però voglio dire, quando ci lamentiamo della disoccupazione giovanile ricordiamoci anche di questi numeri, nel senso che 20 anni fa, o io penso addirittura alla mia generazione, noi eravamo 1 milione, e quando è arrivato il momento di entrare nel mercato del lavoro, bene o male, in qualche modo una sistemazione l'abbiamo trovata. I giovani di oggi sono la metà e le difficoltà le abbiamo sotto gli occhi tutti. Quindi è tutta la macchina che si è in qualche modo ingrippata, che ha rallentato la propria capacità di assorbimento dei giovani, di consumo e quant'altro. Io poi non sono un economista, ma insomma è chiaro che le famiglie che hanno meno figli esprimono indubbiamente un livello di consumo più basso, e quindi c'è sicuramente anche una relazione tra demografia e dinamica, o diciamo vivacità demografica di un paese, e in qualche modo domanda, sviluppo economico collegato. Ecco, io vorrei chiedere al professor Quadriocuzzo, proprio in questa prospettiva, un paese che ha un declino demografico ha anche, se non riesce ad avere a fare delle contromisure, anche un declino economico, professor Quadriocuzzo. Sì, è così, e in Italia, come diceva prima il collega Blangiardo, vi è questo paradosso: un numero di giovani molto minore di quelli che avevamo 30 anni fa, ma nello stesso tempo un numero di giovani disoccupati molto maggiore. Ora, il fatto che in Italia, secondo talune stime, ci siano 2,2 milioni di giovani che sono o disoccupati o non cercano lavoro o sono estranei ai percorsi formativi, vuol dire che c'è qualcosa che va al di là o comunque diverso dalla questione demografica, e quella che io chiamerei la questione motivazionale e la questione normativa. Il fatto che per esempio sia stato molto irrigidito il percorso di ingresso nel mercato del lavoro attraverso una flessibilità, attraverso l'irrigidimento dell'apprendistato, attraverso l'irrigidimento dei tirocini, evidentemente ha delle ripercussioni non indifferenti sulla disoccupazione giovanile, e i giovani disoccupati o non a ricerca di lavoro e non in percorsi formativi creano un ceto, ahimè, di disadattati, non per colpa loro, che aggrava la situazione. Quindi io ritengo che l'Italia debba mettere mano a delle riforme piuttosto incisive per quanto riguarda le possibilità di attività dei giovani, prendendo anche spunto dai modelli come quello tedesco, che fanno della duale tra formazione e lavoro il loro punto di forza. Nei giorni scorsi il ministro del lavoro tedesco, Ursula von Leyen, ha detto che la Germania offre oggi 1 milione di posti di lavoro a persone qualificate. La Germania ha fatto un accordo con la Spagna per assorbire dei giovani spagnoli che non trovano lavoro in Spagna. Il modello duale tedesco, secondo me, è un modello straordinario ed ha fatto in buona parte la fortuna del sistema economico tedesco. E questa è già un'indicazione, grazie professor Quadriocuzzo, un'indicazione operativa di come andare avanti, di come fare appunto un sistema di formazione, di integrazione scuola-lavoro, prendendo il modello tedesco, che può affrontare in maniera costruttiva i problemi molto spesso drammatici italiani. 9 in punto. Bentornati a 9 in punto, bentornati da Gianfranco Fabi. Riprendiamo il nostro dialogo sul fronte delle cose da fare, delle cose che non si sono fatte, perché di fronte appunto ai grandi cambiamenti degli ultimi anni, l'Italia lo ha dichiarato, lo ha in fondo accusato Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nelle sue considerazioni finali venerdì scorso, non ha saputo stare al passo con i tempi. Ecco, un ascoltatore mi chiede di ripetere un po' i dati demografici che avevo detto forse un po' confusamente prima. Ma cerco di essere più semplice. Attualmente una fotografia dell'Italia attuale, qui a 20 anni sono 600.000 persone, 600.000 persone adesso hanno 20 anni. Se guardiamo a chi ha 45 anni adesso sono 970.000 persone. Quindi adesso chi ha 45 anni sono 970.000 persone. Ovviamente chi ha 45 anni adesso 25 anni fa ne aveva 20, quindi erano queste stesse, qualcuno purtroppo ci ha lasciato, magari qualcuno di più, che 25 anni fa, quindi c'erano un terzo di popolazione in più. 25 anni fa c'erano 950.000 persone che avevano 20 anni. Questo è stato, secondo me, il più grosso cambiamento demografico che è avvenuto. Ne stiamo discutendo con il professor Giancarlo Brangiardo, docente di demografia a Milano Bicocca, con il professor Alberto Quadriocuzzo, professore emerito di economia politica all'Università Cattolica. Ma vorrei sentire qualche ascoltatore. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo avere alcune informazioni, anzi volevo porre un quesito. La globalizzazione in quanto tale, quanto ha influito su questa situazione? Intendo dire la globalizzazione deregolamentata, senza alcuna regola, perché è molto facile parlare di competitività rispetto agli altri paesi quando a un certo punto c'è una giungla retributiva, una giungla da un punto di vista dei diritti, una giungla da un punto di vista ambientale, eccetera, eccetera. E soprattutto le privatizzazioni di asset soggetti a concessioni, telecom, autostrade, aeroporti, eccetera, eccetera, che hanno fatte in questo modo, che effetto hanno avuto? Perché adesso a un certo punto cosa fanno? Questi prima davano lavoro a migliaia di persone, poi hanno i privati che sono subentrati e che hanno acquistato con leverage buyout queste società, quindi scaricando il debito sulla società stessa, cioè se la sono comprata con i soldi della società. Grazie mille Francesco, grazie mille. Mi sembra due argomenti molto separati, molto diversi, ognuno ovviamente importante. Io comincerei dal primo, la globalizzazione senza regole sul mercato dei prodotti. Sono arrivati appunto a produzione da paesi deregolamentati, senza peraltro rispetto dei diritti, con salari molto bassi. Allora, professor Quadrio Curzio, cosa possiamo fare, cosa avremmo dovuto fare e cosa possiamo fare di fronte a questa concorrenza? Io credo che a livello globale si possa fare qualcosa, ma non tanto quanto sarebbe necessario, perché colossi come la Cina si autoregolano e accettano, non certo di buon grado, imposizioni anche da parte di organismi internazionali alquanto autorevoli. Quello che a mio avviso è importante è che continenti come l'Europa, che sono in grado certamente di crearsi, come si sono creati, un mercato interno di grande livello, siano particolarmente vigili, non solo perché le imprese al loro interno pongano in essere tutte quelle buone pratiche di funzionamento per una economia civilizzata, ma anche per evitare che all'esterno ci siano delle invasioni di tipologie contrarie a quelle che sono le buone pratiche del commercio internazionale e che possono essere posti in essere da paesi molto potenti. Quindi, mentre io sono particolarmente attento al buon funzionamento interno all'Europa, non sono disattento sul fatto che alle frontiere dell'Europa si pongano in essere tutte quelle pratiche di vigilanza necessarie per evitare dumping o peggio ancora frodi di varia natura. Bisognerebbe forse dare maggiore forza, maggiore spazio anche alle organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che molto fa, ma potrebbe fare molto di più. Ecco, Francesco poneva anche il tema delle privatizzazioni, diciamo che è un tema che è molto importante, ma ne parlerò con Simone Spezia magari per una delle prossime puntate di 9 in punto. Adesso ci stiamo soffermando appunto su questi cambiamenti globali, tecnologici, demografici, e vorrei appunto non uscire dal tema che ci siamo dati. Antonio da Latina, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, secondo il mio punto di vista, la storia del calo demografico va vista già dal boom economico in poi, no? Perché c'è stato l'onda lunga del boom economico, il finanziamento del Mezzogiorno, le imprese che venivano qui, perché io sono nel Mezzogiorno, a impiantare stabilimenti. Ma tutto questo veniva fatto con un'idea dell'economia clientelare, cioè l'imprenditore che veniva qui a impiantare gli stabilimenti era messo lì da dei politici, cioè la classe politica non ha fatto altro che piazzare persone di comodo che dovevano accontentare e poi accontentare a loro volta chi aveva fatto in modo che accadesse tutto questo. Cioè, grazie appunto, mille, mi sembra estremamente chiara come denuncia e anche, devo dire, in parte fondata. Armando da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Io sono un autista e niente, mi sono meravigliato un po' della meraviglia, se così si può dire, dei professori che avete lì sui tanti giovani che sono senza lavoro in percentuale di una volta. Però se noi facciamo il conto che una volta si andava in pensione a 35 anni e ora vogliono farli andare a 43, ora come ora, se facciamo il calcolo di tutti quelli che sono in che non sono andati in pensione dai 35 ai 40, avrebbero quasi tutti il posto di lavoro i giovani. Quindi bisogna che inizino un po' anche loro a capirle le cose. Anche questa domanda mi sembra molto chiara. Secondo lei, aver ritardato l'età della pensione, tenendo conto appunto dell'allungamento della vita media, ha portato via dei posti di lavoro ai giovani? Vorrei una rapida risposta dal professor Brangiardo. Professore. Il problema è che bisogna potersi permettere di tenere la gente, cioè di mandare la gente in pensione, come dire, anticipata per fare spazio ai giovani. Io le dico semplicemente un dato, no? Noi oggi, se ci mettiamo a fare il rapporto, cioè la divisione fra il numero di persone in età anziana, diciamo 65 e più, e il numero di persone in età da lavoro, diciamo da 20 a 64, il rapporto è circa 30%. Benissimo, io ho provato a fare un altro calcolo, e cioè ho provato a calcolare nella popolazione italiana di oggi, tenuto conto dell'età di ciascuno e tenuto conto degli anni di vita futura che ciascuno avrà, se noi ci mettiamo a calcolare quanti anni di lavoro spettano a tutti gli italiani di oggi e quanti anni di pensione spettano a tutti gli italiani di oggi, in base alla loro sopravvivenza, il rapporto è il 60%. Cioè noi siamo con un apparato produttivo che non può permettersi di, come dire, lasciare la gente fuori dal mercato del lavoro mandandola in pensione per fare spazio ai giovani, perché ormai è inevitabilmente così, cioè non ci possiamo illudere. Allora, se questi numeri sono veri, e lo sono, noi dobbiamo fare i conti con questa realtà e quindi dobbiamo cercare di trovare lo spazio per i giovani, senza naturalmente per questo togliere dal sistema produttivo persone che sono ancora produttive, perché questo, ripeto, non ce lo possiamo permettere. Sì, anche perché appunto dobbiamo pensare che il lavoro non è solo una fonte di reddito, ma è, come dice la parola stessa, un lavoro, e quindi una qualcosa che produce una ricchezza, e che produce quindi una ricchezza destinata ad avviare quel ciclo economico positivo tra lavoro, produzione, reddito, consumo, e quindi che fa avere una dinamica positiva all'economia, cioè avere più lavoro. Non è un lavoro qualcosa che si possa dividere in maniera matematica. Il lavoro è qualcosa che si costruisce, deve avere la sua propria dinamica, quindi mantenere più persone al lavoro vuol dire anche rendere più attiva la società, più dinamica la società, e creare maggiori posti di lavoro nei giovani. Non bisogna pensare appunto a un dualismo, che io porto via qualcosa a te, ma bisogna pensare a qualcosa che si aggiunge. L'esperienza dei più anziani può rendere le società, le imprese più efficienti, più capaci di stare sul mercato del lavoro, e quindi anche più capaci di creare posti di lavoro per i giovani. Io vorrei salutare Francesco Belletti. Buongiorno Belletti. Buongiorno a voi. Francesco Belletti, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Abbiamo parlato molto di famiglie e demografia. Io vorrei una battuta da Belletti, poi torneremo sull'argomento, proprio sul giudizio su questa frase di Visco, che l'Italia non ha saputo fare le politiche giuste sul fronte della demografia. Francesco Belletti. Beh, no, l'Italia ha fatto proprio le politiche sbagliate, sembra una congiura contro il ricambio generazionale. Le politiche italiane sono tutte state spostate sul sostegno ai lavoratori adulti, sono state molto lavoristiche. Le politiche familiari fino a 20 anni fa erano sinonimo di politiche fasciste, la demografia sembrava la politica degli 8 milioni di baionette, quindi scontiamo anche un feroce contrasto ideologico, e oggi la politica deve uscire dall'ideologia ed essere pragmatica, investire sulle nuove generazioni. Ecco, sotto questo profilo, allora adesso, professor Belletti, che cosa si può fare? Qual è il cambiamento maggiore? Che cosa bisogna fare sul fronte del lavoro, sul fronte del fisco, sul fronte della società, sul fronte della scuola? Certamente tanti fronti aperti. Qual è, secondo lei, la priorità? Ma i due fronti sono il lavoro dei giovani e il sostegno alle famiglie con figli piccoli. Se scegliessimo di sostenere le famiglie 0-6 anni, è un grande investimento selettivo sul lavoro dei giovani, secondo me daremmo speranza al paese. Dare speranza al paese, questa è certamente una frase ambiziosa. Vedremo nell'ultima parte del nostro programma di dare dei contenuti a questa necessità di dare speranza, che cosa poter fare, perché rendersi conto di queste necessità, di questi cambiamenti, non vuol dire appunto cercare anche tutti quanti, di ognuno nella sua parte, di fare qualcosa per approfittare delle opportunità e poter magari rendersi conto che qualcosa non possiamo cambiare e dobbiamo tenerla così. 9 in punto. Eccoci qua per l'ultima parte di 9 in punto. Stiamo affrontando i temi dei grandi cambiamenti strutturali che ha avuto l'Italia, ma proprio perché l'Italia fa parte del sistema globale all'interno del mondo, grandi cambiamenti messi in luce dal governatore Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, venerdì scorso, cambiamenti sul fronte geopolitico, sul fronte tecnologico, sul fronte demografico. Ecco, su quest'ultimo punto abbiamo insistito particolarmente, molti messaggi sottolineano che il vero problema è quello del lavoro. Dare lavoro ai giovani vuol dire permettere ai giovani di mettere su famiglia, anche di fare dei figli, permettere di avere una fiducia nel futuro, e quindi molti ascoltatori troviamo la soluzione per avviare appunto al lavoro i giovani. Part time, dice un ascoltatore, bisogna magari iniziare dal part time, tagliare il carico fiscale sui giovani, liberare appunto risorse, far sì che le imprese possano più facilmente assumere i giovani. Ecco, su questo fronte le possibilità, le suggestioni, i suggerimenti sono certamente molti. Il tema della disoccupazione giovanile è quello che indubbiamente colpisce molto. Allora, professor Quadriocurzio, su questo fronte ricette sicure ovviamente non ce ne sono, però qualcosa bisogna fare. Sì, io credo che l'Italia debba fare qualcosa, e questo qualcosa è particolarmente urgente in un momento così grave di recessione del nostro paese, che ahimè ha riportato le lancette dell'orologio per quanto riguarda il PIL indietro di almeno 12-13 anni, quindi è una situazione grave. Per quanto riguarda il rilancio dell'occupazione giovanile, a mio avviso bisogna rimettere mano rapidamente a quelle tipologie di contratti che rappresentano il punto iniziale di un'attività lavorativa, e cioè l'apprendistato, il tirocinio, l'alternanza scuola-lavoro, che come dicevo prima caratterizzano il successo dell'economia tedesca. Io temo che in Italia si siano troppo depotenziate le modalità di scuola-lavoro e si siano troppo irrigidite le modalità di accesso al mercato del lavoro, anche con forme di contratti a termine, con forme di stage, con forme di apprendistati. È vero che molti parlano di queste tipologie come precariato, ma la verità è che il precariato, se quello è, e io non credo che sia così, è pur sempre meglio della disoccupazione, perché la disoccupazione nei giovani, quando poi da disoccupazione involontaria diventa disoccupazione volontaria, provoca una serie di conseguenze per le persone, per la società e per l'economia che, recuperate nel tempo, richiedono anni e anni, quindi credo che si debba fare molto di più. Devo dire che dalle recenti dichiarazioni del ministro Giovannini, preceduto dal presidente del Consiglio Letta, sembra che il tema della disoccupazione giovanile sia uno dei temi centrali e che il vertice europeo di fine giugno sarà molto concentrato su queste questioni. Speriamo che sia così sia in Europa che in Italia. Grazie professor Quadriocurzio. Indubbiamente anche la forma appunto del lavoro è importante, però non bisogna pensare che solo il contratto a tempo indeterminato sia una garanzia, perché di fronte a una situazione economica difficile, se un'azienda fallisce, anche i contratti a tempo indeterminato ovviamente non danno alcuna garanzia. Quindi è il sistema economico complessivo che va sostenuto per poter appunto rispondere poi alle esigenze della società. Sentiamo rapidamente un altro ascoltatore, anzi un'altra gentile ascoltatrice, Antonella da Roma. Buongiorno. Ci dica. Io volevo dire questo, il mio punto di vista è che noi siamo governati da un popolo di vecchi che ovviamente ripropongono solo esclusivamente quello che conoscono, non si lanciano in qualcosa di innovativo. Mi scusi, ma io la fermo, ma questo è un luogo comune. Il Presidente del Consiglio Enrico Letta non ha 50 anni, quindi non possiamo dire che è un vecchio. Per la prima volta abbiamo uno giovane. Ecco, e allora prendiamoci conto, diamo valore a questa cosa. Abbiamo un giovane, non ha fatto, per ora ha fatto poco, diamogli un po' di fiducia. Però ecco, continuare a dire che siamo governati dai vecchi mi sembra un po' un luogo comune. Mi scusi la mia drasticità. Giuseppe da Belluno, buongiorno. Salve, io sono un papà di 3 figli sotto i 4 anni. Il problema nostro come famiglia è che, a parte che ci costano 1.000 euro al mese, tra asili, e varie, è che gli asili non sono fatti per le famiglie, nemmeno le scuole, perché aprono alle 8 quando uno alle 8 deve essere al lavoro. Gli asili chiudono alle 4 quando uno alle 5 smette di lavorare. Quindi, grazie mille, mi sembra una testimonianza preziosa per dire che la società magari dà anche delle strutture e poi queste strutture non sa gestirle in maniera positiva, in maniera che possano essere utili queste strutture per la popolazione. Allora concluderei rapidamente con Francesco Belletti, i problemi ovviamente sono tanti, molti ascoltatori insistono, anche uno mi chiede: ma il quoziente familiare dov'è finito? Sembra scomparso dal dibattito, un paio d'anni fa se ne era discusso molto. Volevo però richiamarmi all'ultima telefonata, perché il tema dell'armonizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro è sempre stato considerato nelle politiche del lavoro come un'opzione marginale, un gadget per chi stava molto bene, per le aziende floride, e invece è un fattore decisivo oggi per qualificare anche le politiche del lavoro, e anche su questo mi sembra è un altro modo di ragionare sul fatto che la politica e che la famiglia è troppo marginale nella politica e nell'economia. Ripensare le aziende in modo che non sia più conflittuale gestire tempi di famiglia e tempi di lavoro fa bene anche alle aziende. Grazie dottor Belletti. E allora Giancarlo Bangiardo, per concludere sulle politiche demografiche, le politiche demografiche italiane sono qualcosa che è un'araba fenice, non si sa dove siano. Professor Bangiardo. Naturalmente non si sa dove siano, però io direi che le cose fondamentali a questo punto sono, mi sembra anche di aver capito dai discorsi che sono emersi, realizzare una nuova cultura del lavoro e una nuova cultura della famiglia e della popolazione, cioè della valorizzazione del ruolo della famiglia in particolare nel produrre il capitale umano che fa girare il sistema. E quindi se noi facessimo questa svolta anche di carattere culturale, probabilmente riusciremo a muoverci verso quelle che possono essere le soluzioni di tutti i problemi. Ecco, soluzioni ovviamente che vanno raggiunte, perseguite a piccoli passi, si tratta di fare dei passi nella direzione giusta, non si tratta di cambiare il mondo. Piccoli passi, secondo lei, professor Brangiardo, la priorità attuale qual è per il giovane governo Letta, che vi scrive un ascoltatore? Sì, sarà giovane, però è un vecchio democristiano. Allora, l'intervento Belletti ha ricordato prima nel aiutare le famiglie a risolvere i problemi della conciliazione tra l'essere produttore di capitale umano e anche individui nel mondo del lavoro, nel mondo produttivo. Quindi le donne in primo luogo dovrebbero essere messe in condizione di avere quelle strutture e anche quella possibilità di scelta del poter fare le madri e le lavoratrici. Questo è già un passaggio estremamente importante. Sul piano del lavoro è stato ricordato più volte, un lavoro, avere tutto e subito non si può. Allora l'idea di, come diceva il professor Quadricurzio, avere un lavoro anche se vogliamo precario, piuttosto che non averlo, è certamente qualcosa di meglio. Abituarsi quindi all'idea che ci possano essere anche, salite lungo i gradini, uno dopo l'altro, e non gli ascensori. Grazie mille, in questo essere molto realisti nell'affrontare le cose. Grazie professor Brangiardo, grazie professor Quadricurzio, grazie dottor Belletti di essere stati con noi questa mattina, grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci. L'appuntamento è per domani, ma con Simone Spezia. Ricordati! Mancano 28 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24, la passione si sente. 9 in punto.